Due giorni dopo, il famoso mercoledì, in quello stesso trenino che avevo preso a Balbec per andare a pranzo alla Raspellière, ero tutto occhi per non lasciarmi sfuggire Cotard alla stazione di Grandcourt-Saint-Vaast, dove, stando a una nuova telefonata di Madame Verdurin, avrei dovuto incontrarlo. Sarebbe salito sul mio treno e mi avrebbe indicato dove bisognava scendere per trovare le carrozze mandate alla stazione dalla Raspellière. Così, considerando che il trenino si fermava solo pochi attimi a Grandcourt, prima stazione dopo Doncières, m'ero messo in anticipo al finestrino, per paura di non vedere Cotard o che lui non mi vedesse. Timori del tutto infondati. Non m'ero reso conto sino a qual punto il piccolo clan avesse plasmato tutti gli abitué secondo lo stesso modello. Vestiti, oltretutto, in gran tenuta da pranzo, si distinguevano a prima vista, in attesa sul marciapiede, per una certa aria di sicurezza, di eleganza e di familiarità. Per gli sguardi che superavano, come uno spazio vuoto dove niente cattura l'attenzione, i ranghi compatti della gente comune. E già, spiando l'arrivo di qualche altro abitué che aveva preso il treno a una stazione precedente, frizzavano dell'imminente conversazione. Questo segno d'elezione, che l'abitudine di pranzare insieme aveva impresso su ogni membro del piccolo gruppo, non li rendeva riconoscibili soltanto quando si addensavano numerosi, formando una macchia più brillante in mezzo al gregge dei viaggiatori, che Brichot chiamava il Pecus, sui cui volti insignificanti non si poteva leggere la minima nozione relativa ai Verdurin, la minima speranza di poter mai pranzare alla Raspellière. D'altronde, i viaggiatori ordinari sarebbero stati meno interessati di me se avessero sentito pronunciare, malgrado la notorietà raggiunta da certuni, i nomi di quei fedeli che io mi stupivo di veder partecipare ancora dei pranzi mondani, sapendo che parecchi di loro lo facevano già, stando a quanto m'era stato raccontato prima della mia nascita, in un'epoca al tempo stesso abbastanza remota e abbastanza vaga perché fossi tentato di esagerarne la lontananza. Il contrasto fra il persistere non solo della loro esistenza, ma della pienezza delle loro forze, e l'annientamento di tanti amici che qua e là avevo già visto scomparire, mi dava la stessa sensazione che proviamo quando, nell'ultima ora dei giornali, leggiamo precisamente la notizia che meno ci aspettavamo. Per esempio quella d'un decesso prematuro, che ci sembra fortuito perché le cause di cui esso è il risultato ci sono rimaste ignote. La sensazione è che la morte non raggiunga uniformemente tutti gli uomini, che un frangente più avanzato della sua tragica mareggiata si porti via un'esistenza posta al medesimo livello di altre che i successivi frangenti risparmieranno ancora per molto tempo. Constateremo in seguito, del resto, come la diversità delle morti che circolano invisibilmente sia la causa del particolare senso di imprevisto provocato dai necrologi dei giornali. Vedevo inoltre, col passare del tempo, non soltanto le doti reali, che possono coesistere con la peggior volgarità nella conversazione, rivelarsi e imporsi, ma anche individui mediocri arrivare a quelle posizioni di grande prestigio cui, nell'immaginazione infantile, siamo abituati a collegare qualche celebre vegliardo, senza pensare che, dopo un certo numero d'anni, sarebbero tali i loro discepoli, diventati maestri e capaci ora di ispirare il rispetto e il timore che essi stessi provavano un tempo. Ma se i nomi dei fedeli non erano noti al Pecus, il loro aspetto non mancava di segnalarli ai suoi occhi. Persino in treno, quando il caso di ciò che ciascuno di loro aveva dovuto fare nel corso della giornata li riuniva lì tutti insieme e non restava più da raccogliere alla prossima stazione che un fedele isolato, lo scompartimento in cui si trovavano, contrassegnato dal gomito dello scultore Ski, pavesato dalle tombe di Cotard, fioriva di lontano come una vettura di lusso e richiamava alla stazione voluta il compagno ritardatario. Il solo cui sarebbero potuti sfuggire quei segni di promessa era Brichot, a causa della sua semi-cecità. Ma qualcuno dei fedeli si assumeva volontariamente, a beneficio dell'orbo, le funzioni di vedetta, e non appena s'avvistavano il suo cappello di paglia, il suo ombrello verde e i suoi occhiali azzurri, lo si indirizzava con frettolosa dolcezza verso lo scompartimento d'elezione. Non si dava mai il caso, dunque, che uno dei fedeli, se non incorrendo nei più gravi sospetti di crapule o a meno che non avesse usato un altro mezzo di trasporto, non ritrovasse gli altri lungo la strada. A volte si verificava il contrario. Un fedele si era dovuto allontanare parecchio nel pomeriggio e doveva dunque compiere da solo una parte del percorso prima d'essere raggiunto dal gruppo. Ma anche così isolato, unico della sua specie, non mancava il più delle volte di produrre qualche effetto. Il futuro, verso il quale si stava dirigendo, lo indicava al passeggero del sedile di fronte, che si diceva «deve essere qualcuno». Distingueva, magari, attorno al cappello floscio di Cotard o dello scultore Ski, una vaga aureola, e non si stupiva poi tanto che alla stazione successiva una folla elegante, se erano giunti a destinazione, accogliesse il fedele allo sportello e lo accompagnasse, salutata ossequiosamente dal capostazione di Deauville, verso una carrozza in attesa, oppure, se si trattava di una stazione intermedia, invadesse lo scompartimento. E quel che fece, e con precipitazione, perché parecchi erano arrivati in ritardo, proprio nel momento in cui il treno, già in stazione, stava per ripartire, la piccola truppa che Cotard guidò all'assalto dello scompartimento, al cui finestrino aveva scorto i miei segnali. Brichot, che si trovava fra quei fedeli, lo era diventato ancor di più nel corso degli ultimi anni, che per altri avevano invece segnato una minore assiduità. La sua vista, che diminuiva progressivamente, l'aveva costretto anche a Parigi a ridurre sempre più il lavoro nelle ore serali. D'altronde, aveva poca simpatia per la nuova Sorbona, dove le idee d'esattezza scientifica alla tedesca cominciavano a prevalere sull'impostazione umanistica. Limitava il suo impegno ora al corso e alle commissioni d'esame, e così aveva più tempo da dedicare alla mondanità, vale a dire alle serate dai Verdurin o a quelle offerte di tanto in tanto ai Verdurin da questo o quel fedele tremante d'emozione. È vero che, a due riprese, l'amore era stato sul punto di fare ciò che il lavoro ormai non poteva: staccare Brichot dal piccolo clan. Ma Madame Verdurin, che stava allerta e che peraltro, avendone preso l'abitudine nell'interesse del suo salotto, aveva finito col trovare un piacere disinteressato in questo genere di drammi e di esecuzioni, l'aveva spinto a un'irrimediabile rottura con la persona pericolosa, grazie alla capacità che lei stessa si riconosceva di mettere le cose a posto e incidere gli ascessi. La cosa le era stata particolarmente facile per una delle persone pericolose, che era semplicemente la lavandaia di Brichot. A Madame Verdurin, che aveva libero accesso al quinto piano del professore, scarlatto d'orgoglio quando lei si degnava di salire fin lassù, era bastato mettere alla porta quella donna da nulla. «Come?» aveva detto la padrona a Brichot. «Una donna come me vi fa l'onore di venire a casa vostra e voi ricevete un simile essere?» Brichot non aveva dimenticato il servigio resogli da Madame Verdurin, impedendo alla sua vecchiaia di sprofondare nel fango, e le si era sempre più attaccato, mentre in contrasto, e forse anzi in connessione, con quel ritorno d'affetto, la padrona cominciava a stancarsi d'un fedele troppo docile e sulla cui obbedienza poteva contare a priori. Ma Brichot traeva dall'intimità con i Verdurin un prestigio che lo distingueva da tutti i suoi colleghi della Sorbona. Questi erano abbagliati dai racconti che egli faceva loro, di pranzi cui nessuno li avrebbe mai invitati, dalla menzione del suo nome in qualche rivista o dal suo ritratto esposto al Salon, per iniziativa di uno scrittore o di un pittore di grido, del quale i titolari delle altre cattedre della facoltà di lettere apprezzavano il talento, ma la cui attenzione non speravano di poter mai attrarre, nonché dalla stessa eleganza di vestiario sfoggiata dal filosofo mondano, eleganza che a tutta prima avevano scambiata per trascuratezza, sino a quando il collega non aveva bonariamente spiegato che il cappello a cilindro, durante una visita, si posa di preferenza per terra, mentre non è indicato per i pranzi in campagna, anche se molto eleganti, dove è opportuno sostituirlo col cappello floscio, che si porta assai bene con lo smoking. Dopo che il gruppetto si fu riversato nel vagone, non riuscì nemmeno per qualche secondo a parlare con Cotard, in preda ad asfissia non tanto per la corsa fatta nel tentativo di non perdere il treno, quanto per lo sbalordimento d'averlo preso appena in tempo. Ne provava, più che la gioia d'un successo, quasi l'ilarità d'una farsa spassosa. «È buona davvero», commentò quando si fu ripreso. «Per un secondo, corpo di Bacco, questo sì che si chiama capitare a proposito», aggiunse strizzando l'occhio, non per chiedere se l'espressione fosse giusta, giacché ormai traboccava di sicurezza, ma per pura soddisfazione. Alla fine fu in grado di presentarmi agli altri membri del piccolo clan. Rimasi male vedendoli quasi tutti nella tenuta che a Parigi viene chiamata smoking. Avevo dimenticato che i Verdurin stavano promuovendo, nei confronti del gran mondo, un'evoluzione timida, rallentata dall'affare Dreyfus, accelerata dalla musica nuova, evoluzione che loro, peraltro, smentivano e avrebbero continuato a smentire sino a quando non fosse giunta in porto, come quegli obiettivi militari che un generale annuncia solo quando li ha centrati, in modo da non sembrare sconfitto se li manca. Dal canto suo, del resto, il gran mondo era prontissimo ad andare verso di loro. Per ora si limitava a considerarli come persone che nessuno del giro frequentava, ma che non se ne rammaricavano affatto. Il salotto Verdurin passava per un tempio della musica. Era lì, si sosteneva, che Vinteuil aveva trovato ispirazione, incoraggiamento. Ora, se la sonata continuava a essere totalmente incompresa e pressoché sconosciuta, il nome del suo autore, pronunciato come quello del più grande musicista contemporaneo, godeva di uno straordinario prestigio. Inoltre, alcuni giovani membri del Faubourg si erano messi in mente di diventare non meno competenti dei borghesi e tre di loro, imparata la musica, tenevano in altissima considerazione la sonata di Vinteuil. Ne parlavano a casa con la madre, una donna intelligente che li aveva spronati a perfezionarsi. E poiché si interessavano agli studi dei figli, le madri al concerto guardavano con un qualche rispetto Madame Verdurin, che nel suo palco di proscenio seguiva la partitura. Per il momento la mondanità latente dei Verdurin si traduceva soltanto in due ordini di fatti. Da un lato, Madame Verdurin diceva della principessa di Caprarola: intelligente quella, una donna piacevole. Chi non posso sopportare sono gli imbecilli, noiosi, mi fanno veramente imbestialire. Una persona un po' acuta ne avrebbe dedotto che la principessa di Caprarola, dama della più alta società, si era recata da Madame Verdurin. Durante una visita di condoglianze a Madame Swann, dopo la morte del marito di costei, gliene aveva anzi fatto il nome, chiedendole se li conoscesse. «Come dite?» aveva risposto Odette, colta da subitanea tristezza. «Verdurin!» «Ah, ho capito!» aveva ripreso Odette in tono desolato. «No, non li conosco. O meglio, li conosco senza conoscerli. Li ho incontrati una volta in casa di amici, molto tempo fa. Sono persone gradevoli.» Uscita la principessa, Odette avrebbe preferito averle detto semplicemente la verità. Ma la menzogna immediata non era stata il prodotto dei suoi calcoli, bensì la rivelazione dei suoi timori, dei suoi desideri. Non negava ciò che sarebbe stato diplomatico negare, ma ciò che avrebbe voluto non fosse mai stato, anche a rischio che l'interlocutore, un'ora dopo, scoprisse la verità. Ben presto aveva riacquistato la sua sicurezza e aveva addirittura prevenuto le domande per non avere l'aria di temerle, dicendo: «Madame Verdurin, ma certo, l'ho conosciuta benissimo», con l'affettazione d'umiltà d'una gran dama che racconta d'aver preso il tram. «Si parla molto dei Verdurin da un po' di tempo», osservava Madame de Souvré. Odette, con sorridente disdegno da duchessa, confermava: «Ma sì, mi sembra che effettivamente se ne parli parecchio. Ogni tanto succede, c'è qualche nuova persona che affiora in società. senza pensare che lei stessa era una delle più nuove. «La principessa di Caprarola ha pranzato da loro», riprese Madame de Souvré. «Ah», replicò Odette, accentuando il sorriso, «non mi sorprende. Queste cose cominciano sempre dalla principessa di Caprarola. Poi arriva qualcun'altra, per esempio la contessa Molé». Con tali parole, Odette ostentava un profondo disprezzo per le due grandame che erano solite inaugurare i salotti appena aperti. Dal suo tono traspariva che loro due, lei e Madame de Souvré, non si sarebbero lasciati imbarcare su simili galere. Dopo il riconoscimento tributato da Madame Verduran all'intelligenza della principessa di Caprarola, c'era un secondo segno a denotare che i Verduran erano consci del destino futuro. Adesso, senza chiederlo in modo formale, ben inteso, si auguravano vivamente che si andasse da loro in abito da sera. Il nipote del signor Verduran, quello che era nelle canne, non si sarebbe più dovuto vergognare a questo punto di salutare suo zio.